Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi parlo del libro che mi ha accompagnato durante la quarantena, un bel tomo di 910 pagine che sarebbe potuto rientrare nella categoria dei quelli che ho affettuosamente chiamati il mattone, cioè dei libri che ci intimidiscono per la loro mole. Adesso che si va verso l'estate magari potrete avventurarvi in un libro così impegnativo, ma ne vale veramente la pena. È uno dei capolavori dello scrittore serbo Milos Krnjanski. Era nato nel 1893 a Csongrád in Ungheria, ma la famiglia si era trasferita a Timișoara, oggi Romania. Krnjanski aveva partecipato alle manifestazioni degli studenti serbi contro l'impero austriaco e per questo era stato spedito subito in guerra, la prima guerra mondiale. Poi si era trasferito a Parigi, aveva soggiornato a Roma e dopo la seconda guerra mondiale aveva raggiunto Lisbona e poi Londra, dove avrebbe fatto parte del governo jugoslavo in esilio. Tornerà solo nel 1965 al Belgrado, dove morirà nel 1977. Insomma, uno spirito inquieto ed errabondo che al tema delle migrazioni aveva dedicato un altro libro fluviale, appunto intitolato Migrazioni, pubblicato in Italia da Adelphi in due volumi di 868 e 1076 pagine, 20 euro più 35, che era un'epica ricostruzione delle vicende nel Settecento dei serbi che abitavano la Voivodina. Qualche mese fa è uscito il romanzo di Londra, pubblicato da Mimesis, tradotto da Alessandra Andolfo, 910 pagine, 32 euro. Qui l'autore riprende la propria esperienza, molto difficile, di esule a Londra, ma il protagonista del libro è un esule russo, in realtà il principe Repnin, che dopo la Seconda Guerra Mondiale approda con la moglie nella capitale britannica. Dopo un lungo periodo di esilio seguito alla rivoluzione bolscevica, subito dopo la quale egli aveva militato nelle milizie bianche. La coppia ha già girovagato per molte città, è stata anche a Milano, vivendo degli umili lavori del marito e del ricavato delle vendite degli ultimi beni, soprattutto degli ultimi gioielli rimasti. Londra non è particolarmente accogliente, i lavori proposti sono quasi umilianti, la miseria in molti momenti morde, la moglie a un certo punto accetterà di rifugiarsi presso una zia in America. Il principe, come era successo nella realtà all'autore, non familiarizza troppo col gruppo dei connazionali ed è divorato dalla nostalgia per il suo paese, al punto da inorgoglirsi per le vittorie militari di Stalin, che avevano comunque salvato l'onore del suo paese. Insomma, un grande libro sull'esilio che intreccia le vicende apparentemente insignificanti del principe e della principessa, costruttrice di bambole, quest'ultima, con quella di una comunità di esiliati e con quella di Londra, soprattutto l'altra grande protagonista del libro, una città scostante e difficile, come spiegano queste righe. Vorrei lavorare. Non so perché non me lo permettano. A Praga ero disegnatore in un ministero. Avevamo la nostra piccola casetta. Com'era bello a Praga, quando fiorivano gli alberi da frutto. Non chiedevamo niente, solo il necessario per vivere. Non ho mai dimenticato la Russia. Non mi sono spaventato neppure quando vendemmo gli ultimi gioielli. Abbiamo vissuto così per 3 anni, felici. Ricordo l'albero da frutto che fioriva davanti alla nostra casa e che sfiorava la finestra della stanza dove ti aspettavo. Non mi sono vergognato neppure quando ho iniziato a suonare in un caffè, in Portogallo. Non facevamo la fame. Laggiù c'era grande povertà, ma tutti avevano buon cuore. Qui, per la prima volta, ho sentito qualcosa afferrarmi alla gola e stringere. È Londra. Mi stritola, come dicono facciano i serpenti. Non ne posso più. E la cosa peggiore è il disgusto che tutto ciò genera. Non sapevo che gli uomini potessero essere così, né che potesse esistere una città così grande, così antica, dove tutti si salutano in modo così cortese e dove tutti mentono. Un altro importante scrittore di origine bosniaco-musulmana è Meza Selimovic, vissuto tra il 1910 e il 1982, di cui Besamuce Editore pubblica La Fortezza, 448 pagine, 25 euro, tradotto da Vesna Stanic. Questo libro è considerato uno dei più importanti della letteratura serbo-croata e della cultura jugoslava ed è del 1970. Esso è ambientato nel Sarajevo del XVIII secolo, la cui fortezza, quella a cui allude il titolo, diventa il simbolo di un potere violento e dispotico. Tra l'altro a Sarajevo l'autore aveva proprio insegnato dopo la guerra. Nella città ritorna un soldato dalla guerra per sposare una cristiana e avviare una carriera pubblica che si intreccia con tentativi avventurosi come quella di far evadere proprio dalla prigione nella fortezza il fratello. Ahmet, il protagonista, tra i pochi soldati che sono riusciti a rientrare incolumi, ritorna cambiato dalle esperienze drammatiche sui campi di battaglia, un carattere riflessivo e contemplativo che l'epoca non apprezza particolarmente. E in certi passi il romanzo ricostruisce fedelmente l'ambiente della dominazione ottomana, in altri sembra diventare una metafora della Jugoslavia comunista e a sua volta il rapporto con la moglie cristiana aggiunge il tema delle tensioni multiculturali che rendono il libro attuale e significativo. E sentiamo dal libro queste righe molto attuali anch'esse dedicate al tema del potere. Mai da nessuno avevo sentito dire parole così violente. Esprimere un tale disprezzo verso gli uomini al potere, una tale libertà di pensiero, come quella sera, ascoltando l'acceso studente di Al-Azhar che non conosceva la paura o non sapeva cosa fosse il potere. Aveva detto, ricordo ancora il mio sbigottimento, che esistono tre grandi passioni, l'alcol, il gioco e il potere. Dalle prime due la gente in qualche modo può guarire, dalla terza assolutamente no. Il potere è anche il vizio più grande. Per esso si uccide, per esso si muore, si perde l'umanità. È irresistibile come una pietra magica, perché assicura il dominio. È il genio venuto dalla lampada di Aladino, al servizio di ogni idiota. Queste passioni, divise, non rappresentano nulla. Unite, determinano il destino di questo mondo. Non esiste autorità onesta e saggia, perché la volontà di potenza non ha confini. L'uomo al potere è sollecitato dai vigliacchi, incoraggiato dagli adulatori, sorretto dai malfattori e l'immagine di sé è sempre migliore di quanto non lo sia nella realtà. L'uomo al potere considera stupidi tutti gli uomini perché incapaci di esprimere la loro vera opinione, mentre lui conferisce a se stesso il sapere assoluto e la gente lo accetta. Un personaggio che certamente il protagonista del libro di Krnjanski, cioè il principe Repnin, avrebbe potuto conoscere nel suo paese è Sergej Shchukin, il leggendario collezionista d'arte contemporanea vissuto tra il 1854 e il 1936, al quale dedicano un libro Natalia Semerova, che è una storica dell'arte, scrittrice e giornalista, e Andrei Delok, curatore di musei, nonché nipote dello stesso Shchukin. Il libro si intitola Sergej Shchukin, un collezionista visionario nella Russia degli zar, pubblicato da Johan Levi, tradotto da Ximena Rodriguez Bradford, 336 pagine con illustrazioni, 32 euro. Shchukin è famoso soprattutto per la passione che ebbe per Matisse. Quando lo scoprì nel 1906, il ricco imprenditore tessile russo era già un collezionista affermato, con una pinacoteca leggendaria zeppa di Monet, Degas, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Di Matisse diventerà il protettore, consentendogli di realizzare alcuni dei capolavori come la famosa Danse. Poi scoprirà anche Picasso, insomma un protagonista dell'arte del Novecento, nel cui palazzo moscovita, il palazzo Trubecoi, possiamo entrare attraverso le immagini del 1914 che riproducono le sale con i capolavori esposti che nel libro spiccano, si stagliano a colori sulle immagini bianco e nere. Nel Salone Rosa di Matisse ce n'erano 30, nella sala dedicata a Picasso in 25 metri quadri c'erano 50 opere del periodo protocubista e cubista. Il libro rievoca le vicende familiari, la formazione della collezione, la sfrenata passione di Shchukin che mise le sue opere a disposizione degli artisti e del pubblico, scioccando naturalmente l'ambiente culturale russo. Fondamentale, come dicevo, fu l'incontro con Matisse, al quale il collezionista commissionò una grande opera da collocare in uno spazio della sala da pranzo Un particolare che a Matisse fece piacere e infatti esclamò: finalmente qualcuno che non separa la pittura dal contesto in cui è calata. La situazione naturalmente precipitò con la rivoluzione. Sergei scapperà con la famiglia in Germania, il figlio Ivan si arruolerà nelle forze controrivoluzionarie per raggiungere poi Costantinopoli, mentre un nipote andrà in Francia. Il 29 ottobre del 18 Lenin firmerà il decreto che nazionalizza la collezione e il palazzo, che faceva gola per la posizione strategica vicinissima al Cremlino in cui si trovava. E poco dopo la collezione sarebbe stata spostata in un'altra sede, unificata con un'altra celeberrima collezione, quella Morozov, per dare vita al primo museo d'arte moderna al mondo, che poi sarebbe stato smantellato da Stalin per ragioni ideologiche, perché Stalin naturalmente non poteva approvare queste opere più o meno degenerate. E le opere vennero appunto trasferite in larga misura nei depositi. Bisognerà poi aspettare il disgelo perché quegli eccelsi capolavori potessero tornare visibili nei musei di Mosca e di San Pietroburgo. E a questo punto il confettino. Per incontrare anche noi Matisse c'è uno dei grandi albi del MoMA che viene tradotto da Fatatrak. Questo si chiama Il giardino di Matisse di Samantha Friedman, tradotto da Elena Baboni e Alice Keller, 48 pagine, 19,90 €, che è una pubblicazione nata in occasione della mostra The Cutouts, dedicata ai collage che segnarono l'ultimo periodo del grande artista e che sono presentati in formati ampi e spettacolare. Di un altro grandissimo artista del Novecento, Paul Klee, ricorderemo domani l'80esimo della morte. Paul Klee ce lo ricorda il figlio Felix nel libro Vita e opere di Paul Klee, 264 pagine, 20 €, pubblicato da Ghibli, che ci fa conoscere la vita rimasta piuttosto riservata del padre, oltre che delle sue opere principali, mentre Abscondita pubblica diari, periodo 1898-1918, tradotti da Angelica Tizzo, che completano la conoscenza dell'artista. Questi diari, infatti, sono la traccia lasciata da Klee per 20 anni nella sua esistenza, un diario ricco di prospettive e punti di vista insoliti e spiazzanti. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo visto Londra e Sarajevo diventare metafora di due condizioni, l'esilio e il potere, a conferma della stretta correlazione tra geografia e racconto. Ma anche la non geografia può assumere un valore particolare e diventare simbolo di una condizione artificiosa, di una situazione quasi beffarda, che diventano esse stesse argomento di una storia, quella che racconta Philip Drugge, giornalista scientifico olandese, in Terra di Nessuno, l'incredibile storia di Moresnet, un luogo che non sarebbe dovuto esistere, tradotto da Andrea Costa per Keller, 286 pagine, 17,50 €. Drugge racconta una storia vera, poco nota e quasi incredibile, ossia di un lembo di terra tra Belgio, Paesi Bassi e Germania, che conquistò uno status particolare alla caduta di Napoleone. Al congresso di Vienna, infatti, grazie alla capacità diplomatica del proprio rappresentante, il barone von Gagern, l'Olanda riesce a ottenere un ampliamento territoriale. Ma nella frenesia delle conclusioni dei lavori del congresso, non tutti i termini sono perfettamente definiti e resta abbastanza aleatorio il nuovo confine tra Prussia e Paesi Bassi. Un nuovo personaggio, Maximilian de Man, ingegnere e direttore dell'ufficio topografico olandese, interviene per avviare una complicata trattativa che riguarda ogni singolo villaggio dei territori contesi, che per errori ed equivoci non saranno del tutto risolutivi. E questo porterà a una disputa finale per un'importante miniera, appunto Moresnet, che nel trattato di Aquisgrana del giugno del 1816 tra Francia, Olanda e Paesi Bassi resta neutrale, non essendone stato definito lo status, e il territorio appunto indiviso di Moresnet, da non confondere col villaggio un po' più grande del territorio stesso al di fuori della nuova entità. È un triangolo di 3,4 km quadrati, quindi più o meno tre volte la città del Vaticano, che manterrà la sua autonomia, pur provvisoria, ma per un lungo periodo, fino addirittura al 1920, quando dopo il Trattato di Versailles, Moresnet diventa belga, il che darà vita poi ad anni di ulteriori complesse trattative per ridefinire la nazionalità e lo status dei pochi abitanti. Una vicenda apparentemente di interesse per esperti di diritto internazionale che viene qui raccontata nei suoi contorni di cronaca. Moresnet, pur non riuscendo a farsi riconoscere come indipendente, si comporta come tale e vantando di essere una comunità ideale nonostante il lavoro minorile, la prostituzione, l'inquinamento e il rifugio che offre a qualche delinquente. E a un certo punto diventerà perfino oggetto di un complotto filatelico prima di mettersi essa stessa a emettere francobolli. Moresnet, insomma, diventa poco più di un dissenso congelato tra tre paesi, scrive il libro, un'entità sulla natura della quale si accapigliano i giuristi, e per concludere che si tratti di un meraviglioso errore della storia, un territorio nato per sbaglio, un falso condominio, quindi simile alla Virginia, nata come possedimento privata di una società commerciale britannica e poi diventata uno Stato, è esattamente come voleva diventare il triangolo di Moresnet, che di fatto è controllata dalla società proprietaria dalla miniera, ma per molti quel territorio diventerà una repubblica ideale, un angolo di mondo dimenticato, un luogo arcadico, una felice follia, finché troverà il padre della patria che cercherà di farne un vero e proprio Stato. Moresnet, insomma, è uno di quei curiosi incidenti o testimonianze della storia di cui l'Europa è piena, e allora percorriamola questa Europa partendo più o meno dalla stessa zona e facendoci guidare da un altro scrittore olandese, Matthijs Den, che è autore di Per le antiche strade, un viaggio nella storia d'Europa, tradotto da Elisabetta Svaluto Moreolo per Iperborea, 462 pagine, 18,50 euro. Il libro è frutto di un'emozione giovanile suscitata dal padre che al volante, imboccando un tratto di un breve percorso per andare a trovare i nonni, spiega al ragazzino, il futuro autore, che quel breve tratto che stanno percorrendo è un piccolo segmento di un'arteria vitale, la E8, che da Londra conduce a Mosca, ora sostituita da un'autostrada assai meno romantica, la E30. Di qui l'idea di descrivere o raccontare questa arteria della rete stradale europea di cui ci si racconta l'origine, risalendo nel tempo e raccontando alcune storie che su quelle strade hanno avuto luogo. Si parte molto da lontano, 800.000 anni fa, quando un gruppo di persone, due bambini e tre adulti, lascia le proprie impronte scoperte nel 2013 in Inghilterra, molto prima di quanto si fosse pensato fino a quella scoperta che fossero arrivati i primi umani. L'Europa non era facile da raggiungere, infatti, anche per le ridotte capacità dell'Homo erectus. E poi troviamo tante altre storie su itinerari importanti su cui si è fatta la storia d'Europa, per esempio la Via Appia, dove opera nel libro l'astuto brigante Bulla, capace di far infuriare anche l'imperatore Settimio Severo, che tempo prima era stato da lui beffato con le sue gesta, o il percorso che dall'Islanda conduce a Roma è seguito nel libro da una pellegrina del 1025 che riuscirà a farsi ricevere dal Papa per invocare una benedizione per i parenti e si sentirà rispondere con queste parole da Giovanni XIX. Poi il Papa disse: ti dirò che cosa devi fare, figliola. Torna in Islanda, fai costruire chiese, fondare abbazie che versino i loro proventi direttamente a Roma. Ti forniremo tutti i documenti necessari. Se vuoi che vengano dette messe per i tuoi congiunti battezzati, dona senza riserve. Fai in modo che l'entità dell'offerta rispecchi la profondità dei sentimenti e della preoccupazione che nutri per i tuoi cari. Naturalmente l'Italia restava al centro di questo reticolo e una delle mete più ambite, come ci ricorda Philipp Blom, storico, romanziere e giornalista tedesco, nel libro Un viaggio italiano, storia di una passione nell'Europa del Settecento, tradotto da Francesco Peri per Marsilio, 320 pagine. Anche questo è un libro ricco di microstorie che ruotano intorno alla passione per l'Italia e per la musica, che è una delle protagoniste del libro, nel quale si parla di una storia non inventata, garantisce l'autore, basata sull'ossessione per un violino, che non è certo uno Stradivari, ma un buono strumento costruito a Milano nel 1605, riparato a Vienna nel 1882, almeno a leggere le due etichette che si trovano all'interno del violino, di cui però la prima è falsa. L'autore, appassionato di strumenti antichi, scopre dal suo riparatore questo strumento, l'amico glielo presta perché lo ha restaurato e vuole che venga suonato. L'esperienza si rivela all'inizio deludente e poi invece riserverà delle sorprese, lo strumento farà sprigionare tutto il suo fascino col tempo, e così da quel violino senza storia, anonima, impossibile da attribuire a uno dei grandi, come scrive l'autore, ma ancora capace di cantare e toccare le corde del cuore, nasce il viaggio di Blom per ricostruire la storia dello strumento. Si parte dalla Baviera, che secondo l'amico era l'area nella quale era stato in realtà costruito il violino, per passare all'Aia, dove lo scrittore deciderà di scrivere il libro, per ricostruire la vita ipotetica di un luttaio degli inizi del Settecento, e poi si valicheranno le Alpi con gli occhi del luttaio, appunto, per arrivare a Milano, dove il violino sarebbe stato costruito da un altro celebre maestro dell'epoca, Carlo Giuseppe Testore. E in questa occasione il protagonista, che è poi l'autore, che parla in prima persona, illustra il suo rapporto con i violini antichi, come spiegano queste righe. In un violino, inteso come strumento musicale, contano tutte le qualità che l'esperto non giudica pertinenti. In quanto oggetto storico, però, il mio violino è anche una cosa, un manufatto nel quale convergono innumerevoli vicende umane. In un violino sono sedimentati secoli di competenze e sperimentazioni di musicisti e artigiani. Ci sono le vie del trasporto e del commercio lungo le quali transitavano i legni e le maestranze. Ci sono la società nella quale lo strumento trovava utilizzo e il mondo dal quale proviene. Per tentare di avvicinarmi al cuore del mistero che il mio violino sembrava celare con tanta cura, ho provato a fare quello che gli specialisti di solito non fanno. Se un esperto interessato soltanto al violino, inteso come oggetto, non riusciva a ricavarne le risposte che cercavo, occorreva percorrere la strada opposta e ricostruire innanzitutto il mondo dal quale proveniva quello strumento. Il viaggio proseguirà e premierà la pazienza e la perspicacia dell'indagatore. Importante sarà un'altra tappa italiana, Venezia, di cui ci viene riassunta e presentata la brillante e particolare vita musicale. E insomma, questo viaggio diventa una sorta di ricerca di un padre, come dice al protagonista un suo interlocutore. In questi ultimi libri abbiamo visto tanti interlocutori stranieri dell'Italia, ma che idea si facevano degli stranieri degli italiani? Una documentazione importante a questo proposito è il libro di un famoso storico svizzero, ma francese di origine, Simon de Sismondi, vissuto tra il 1773 e il 1842, autore di una storia famosa, la storia della Repubblica Italiana nel Medioevo, pubblicata in 16 tomi a partire dal 1807. Gli ultimi due capitoli di questo libro parlano degli italiani e sono pagine importanti che all'epoca fecero molto discutere, ispirarono per esempio ad Alessandro Manzoni le Osservazioni sulla morale cattolica del 1819. Manzoni era stato spinto dalla carica polemica che Sismondi aveva enfatizzato sul ruolo negativo svolto dal cattolicesimo. Questi ultimi due capitoli sono ora pubblicati autonomamente in una traduzione moderna, cura di Roberto Bizzocchi, col titolo Il carattere degli italiani, pubblicato da Biella, 138 pagine, 19 euro. Sismondi occupa una sessantina di pagine del volume, che è preceduto da un utile e approfondita presentazione del curatore, che è uno storico all'Università di Pisa, che mette in luce il ruolo importante svolto da Sismondi nelle riflessioni sulle due grandi rivoluzioni di cui fu testimone, quella economica del libero mercato e del capitalismo e quella politica della fine dell'Ancien Régime, su entrambe le quali elaborò visioni originali e significative. L'opera della quale è tratta è monumentale, faticosa, non scevra da errori metodologici, nota il curatore. Sismondi detestava per esempio i medici, in particolare Lorenzo, che considerò responsabile dell'invasione da parte delle potenze straniere dell'Italia, e non riconobbe in Lorenzo il ruolo di equilibratore che gli aveva cercato di garantire. Gli ultimi capitoli dell'opera sono appunto dedicati alla fine della Repubblica di Firenze, finita la quale, secondo l'autore, l'Italia non diventava altro che un vasto museo, così scrisse. Di qui le riflessioni critiche sul cattolicesimo controriformista, messo costantemente a confronto con le virtù delle confessioni riformate alle quali lo stesso autore apparteneva. E sentiamo per esempio da Sismondi una caratteristica particolare degli italiani che avrebbe influito a lungo sulla debolezza dell'opinione pubblica nel nostro paese. Le repubbliche italiane ignorarono le prerogative che noi moderni consideriamo necessarie a garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini. Della libertà di stampa non si aveva neppure l'idea. Lungo tutta la storia d'Italia si trovano a malapena due o tre opere pubblicate sul tema degli affari di governo e i loro autori ebbero sempre cura di farli stampare fuori dai confini dello Stato, perché altrimenti essi e i loro editori rischiavano le più severe punizioni. Non solo i partiti al governo, ma anche quelli all'opposizione trascuravano di illuminare l'opinione pubblica, condividendo la convinzione che le discussioni e le decisioni politiche non dovessero uscire dalla cerchia dei consigli. Per contro, bisogna ammettere che gli storici attivi nelle repubbliche, i quali prima dell'invenzione della stampa non scrivevano per i contemporanei, ma per i posteri, seppero dar prova nei loro scritti di grande coraggio e ammirevole imparzialità. Nei loro giudizi sui loro concittadini e i loro governi si riconosce lo stile dell'uomo libero. Ciò nonostante, secondo Sismondi, le repubbliche italiane avevano dato vita a un sistema mirabile basato su tre elementi, e cioè la possibilità di sindacare l'operato dei governanti, la dignità della condizione di cittadino, l'emulazione tra le varie componenti della nazione, che furono le vere cause della libertà italiana. Un sistema che la fine delle repubbliche e l'avvento della Controriforma avrebbe appunto annientato con lo snaturamento della morale che, scrive, ignorò il male che le nostre colpe possono provocare agli altri esseri umani, concentrandosi solo sulle presunte prescrizioni divine. Un orientamento che corruppe anche l'istruzione, con risultato, scrive sempre Sismondi, che la grande maggioranza dei giovani italiani si adagiò in un'assoluta stagnazione intellettuale. E di qui il successo del dispotismo, la corruzione del sistema giudiziario e un malinteso senso dell'onore che rende perdonabile perfino l'omicidio. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Michele Previati, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.